Sono qui per regalarti una canzone d'amore, da sentire ad occhi chiusi con la mano sul cuore, che racconti col suo testo tutto quello che sento, che ti resti vicino e dica quanto ti penso. Per regalarti una stella, non sono qui per regalarti la luna, ma per frugarmi nel cuore e darti meglio del meglio che ho per te. Non puoi comprarla nei negozi del centro, non puoi richiederle programmi alla radio, è una canzone d'amore, è come bello cantarla per te, per te. Ma non lasciarla nelle mani, oh no, nelle mani. Non lasciarla nelle braccia, non lasciarla tra le braccia. Non lasciarla nei tuoi occhi e vedrai, nei tuoi occhi, cosa sento. Se nel cuore